E allora, visto che invece appunto, c'era questa proiezione su Chelsea-Bayern all'Allianz Arena, per il momento non è ancora una proiezione tecnica, è una proiezione ambientale. Io ricorderei questa pazza spedizione che parte da San Marino, di cui ci hai anticipato qualcosa la scorsa settimana. Sì, sono 5 vetture, 5 Fiat 500, partenza prevista lunedì mattina dalla Repubblica di San Marino, dal Monte Titano. Quindi, come ho detto l'altra volta, una bella partenza in discesa per prendere la rincorsa, perché ne avremo bisogno. Siamo su delle Fiat 500 vecchie, insomma, hanno tutte più di 40 anni, quindi sono delle belle signore, punto, e che però speriamo ci riescano a condurre verso questo traguardo, che è Monaco di Baviera. Ora mi direte: San Marino, Monaco di Baviera, vabbè, insomma, in una settimana ce la si può fare? No. Ne prendiamo il giro lungo, perché vogliamo andare a salutare i tifosi del Chelsea, con i quali tra l'altro abbiamo già preso appuntamento a Stamford Bridge. E allora noi andremo da San Marino a Londra e poi faremo un giro intorno a Stamford Bridge e torneremo giù prendendo anche lì la rincorsa, sperando che il mappamondo non ci tradisca e non si sbagli strada, e vorremmo arrivare sabato 19 all'Allianz Arena per la partita tra Bayern di Monaco e Chelsea, quindi idealmente unendo queste due realtà. Non è detto che ce la si faccia, nel senso che le vetture sono testate, messe a posto, abbiamo un camper che ci sostiene con due meccanici bravissimi che speriamo coprano eventuali defiance. Le vetture però non vanno a più di 70-80, quindi insomma bisognerà fare la doppietta a scalare, ma io credo che avremo poco da scalare, perché bisognerà semplicemente andare dritti e spediti e sperare di non fermarsi mai, o quasi mai.